vostro agio in piedi. And then just lift up through the top of the head. Quindi sollevate la sommità del capo. Just relax the forehead. Rilassate la fronte. Your eyes just ahead of you on the floor, just resting on the floor. Gli occhi socchiusi che guardano davanti a voi come se riposassero sul pavimento. The jaw relaxed. Rilassate la mandibola. If there's tension there, just waggle it about a bit. Quindi se c'è un po' di tensione, muovete un po' la mandibola per scioglierla. Lips together, teeth apart. Le labbra sono unite, ma i denti aperti. And the shoulders. Le spalle. So if there's tension, give it a good squeeze. Se c'è un po' di tensione, stringete un po' le spalle, poi rilassate. So the hands can be joined in front or by the side, it doesn't matter. Le mani possono essere unite davanti oppure possono pendere lungo i fianchi, non ha importanza. And just draw your attention to the soles of your feet. Portate l'attenzione alla pianta dei piedi. What sensations can you feel there? Che sensazioni provate lì? Can you distinguish two types? Riuscite a distinguerne due di queste sensazioni? Due tipi? So one is pressure. Una è la pressione. And the other one temperature. L'altra è la temperatura. And there are also those subtle feelings that tell you what you're standing on. Sono anche delle sensazioni molto sottili che vi dicono su che cosa state poggiando. And just acknowledge how all the sensations are changing as the body rebalances itself. Cercate di riconoscere come tutte queste sensazioni cambiano man mano che il corpo cerca di ritrovare un nuovo equilibrio. And acknowledge that these sensations are not under your control. Riconoscete il fatto che queste sensazioni non sono sotto il vostro controllo. This is something the body does. È una cosa che fa il corpo. Just taking your time, come up the body and see what sensations you can feel. Prendetevi il vostro tempo e scorrete in su lungo il corpo, vedete quali sensazioni si presentano. And be especially aware of areas that seem to be empty of feelings. E siate particolarmente consapevoli di quelle zone che sembrano essere prive di sensazioni. When you get to the abdomen, can you feel the breath there? Quando arrivate all'addome, riuscite a sentire il respiro, quella zona? Do you feel it more in the stomach area? Lo sentite più nella zona dello stomaco? Or do you feel the breath mostly in the chest? Oppure hai sentito il respiro principalmente nel petto? You feel the heartbeat? Sentite il cuore che batte? Shoulders still relaxed, or do they need another squeeze? Le spalle sono ancora rilassate o c'è bisogno ancora di strizzarle un po', di stringerle un po'? The jaw. E la mandibola. Still relaxed. È ancora rilassata. And when you get to the scalp, scan it like you did the soles of your feet. E quando arrivate alla testa, al cranio, passatelo come avete fatto con la pianta dei piedi. Fate uno scanning. Scorretelo. Now from there, without moving your eyes, launch your attention completely outwards. E da lì, senza muovere gli occhi, lanciate la vostra attenzione completamente al di fuori. Become aware of shapes and colors. Siate consapevoli dei colori, delle forme. The sounds. Se ci sono dei suoni. The presence of other people. La presenza di altre persone. The atmosphere of the room. L'atmosfera che c'è nella stanza. So your attention is completely out there. Così che la vostra attenzione è completamente là fuori. Now at the same time bring in your attention to the inside. Allo stesso tempo adesso proviamo a portare l'attenzione all'interno. So we have a global awareness, both the inside and the outside. Cosicché abbiamo una consapevolezza globale dell'interno e dell'esterno. And within that global awareness, the attention is drawn now to this, now to that. E all'interno di questa consapevolezza globale, l'attenzione è attirata un po' a questo, un po' a quello. Don't look for anything. Ma non cercate nulla. And relax, just relax into this present moment. Ma rilassatevi, rilassatevi semplicemente in questo momento presente. Relaxing into the presenting moment. Ci rilassiamo nel momento così come si presenta. Abiding in the present moment. Dimoriamo nel momento presente. Here in this mode, just being, we can let go of ideas of achieving something. Qui, in questa modalità del semplice essere, possiamo lasciare andare qualsiasi desiderio di ottenere qualcosa. Whenever we're in the mode of trying to achieve something, we're always doing something now for some future result. Ogni volta che ci troviamo nella modalità in cui vogliamo raggiungere o ottenere qualcosa, noi stiamo facendo qualcosa adesso, finalizzato però a qualcosa nel futuro. But just being is the result, is the present. Ma il semplice essere è il risultato, è il presente. There's no reason for being beyond itself. Non c'è alcuna ragione per l'essere, al di là del fatto stesso di essere. Relaxing into the present moment. Ci rilassiamo nel momento presente. Wide awake. Pienamente svegli. Here we can let go of ideas of the future. Qui possiamo lasciare andare le nostre idee sul futuro. In this mode, we're just in the present moment. In questa modalità, noi siamo semplicemente nel momento presente. We're not going anywhere. Non stiamo andando da nessuna parte. We've already arrived. Siamo già arrivati. Dwelling in the present moment, wide awake. Dimoriamo nel momento presente, pienamente svegli. Here in this mode, we're just receiving. Qui in questa modalità stiamo semplicemente ricevendo. We're not reacting, we're not responding. Non stiamo reagendo, non stiamo rispondendo. In this sense, we don't have to present somebody. In questo senso, con questo significato, noi non dobbiamo presentare un qualcuno. We don't have to perform. Non dobbiamo eseguire un'azione. Like an actor, perform. Non dobbiamo recitare come un attore. Here we can be anonymous. Qui possiamo essere anonimi. Relaxing into the present moment, wide awake. Ci rilassiamo nel momento presente, pienamente svegli. Dwelling in the present moment, wide awake. Dimoriamo nel momento presente, pienamente svegli. Achieving nothing, going nowhere, being nobody. Senza cercare di ottenere nulla o di raggiungere alcun luogo, senza cercare di essere qualcuno. In this mode we're developing 5 of the 7 factors that lead to liberation. In questo modo noi stiamo sviluppando 5 dei 7 fattori che portano alla liberazione. The awareness, la consapevolezza, the stillness of attention, concentration, quindi un'attenzione ferma o la concentrazione, and the effort needed to maintain it. Lo sforzo necessario per mantenerla. a sense of calmness, un senso di calma, and equanimity. E l'equanimità. Equanimity here means not coming from a place of I know, I'm sure. Equanimità, per equanimità qui si intende partire da un punto del non voler a tutti i costi sapere o essere. Can you just repeat that again? Yeah, coming from a place of I know, suppose. Quindi non venire da un posto da, secondo il quale una posizione in cui diciamo io so. But from a position of I don't know, I'm not sure. Ma piuttosto da una posizione che ci fa dire io non so, io non sono sicura. Coming from a place of no aversion, no fear. Quindi veniamo da una posizione o da un luogo del non avversione, non paura. No preference. Non abbiamo preferenze. But with an open mind, open heart. Ma abbiamo una mente aperta, un cuore aperto. When this is established, we can bring in the other two factors of liberation. Quindi quando questo è ben stabilizzato, possiamo sviluppare gli altri due fattori che portano alla liberazione. An interest to be a desire, an interest in the Buddha's teachings. Un interesse, un desiderio di conoscere gli insegnamenti del Buddha. To investigate ourselves. A investigare noi stessi, a ricercare in noi stessi. This mode is very important in ordinary daily life. Questa modalità di essere è molto importante nella nostra vita quotidiana. And to practice it constantly on this retreat. E dovremmo praticarlo costantemente in questo ritiro. It means just to stop. E significa semplicemente fermarsi. And when we are in this mode, we can see an intention arising. Quando ci troviamo in questa modalità, noi possiamo vedere sorgere l'intenzione. Intention in the Buddha's teachings is where all our conditionings begin. E le intenzioni, secondo il pensiero del Buddha, gli insegnamenti del Buddha, è dove nasce all our conditionings. Tutti i nostri condizionamenti hanno inizio. If we can see an intention coming which we know is unwholesome. Quindi se riusciamo a vedere arrivare una o svilupparsi una intenzione che non è salutare, all we have to do is stay very still and wait till the feeling passes. Tutto ciò che dobbiamo fare è rimanere molto fermi e aspettare che questa sensazione passi. In this way we draw the energy of that conditioning out. In questo modo noi prosciughiamo l'energia che sta dietro questa intenzione non salutare. We exhaust the conditioning. È come se noi esaurissimo questo condizionamento. And when we see an intention which is good for us, viceversa, se vediamo un'intenzione che ci fa del bene, then we empower it, we do it. Allora noi la potenziamo, la facciamo. Just in this very simple way we can radically change ourselves. In questo modo molto semplice c'è possibile radicalmente cambiare noi stessi. It's necessary to know this position of just being. Ma è importante conoscere questa posizione del semplice essere. Our next intention will be to sit. La nostra prossima intenzione sarà quella di sederci. So, beginning with our Mahasi tradition. Cominciamo quindi la nostra tradizione Mahasi. Really slow all your actions down. Rallentiamo tutte le nostre azioni. Really take your time. Prendetevi il vostro tempo. Be aware of all the movements it takes to get us into a sitting posture. Siate consapevoli di tutti i movimenti necessari per tornare alla posizione seduta. And to use little noting words. Potete usare delle parole, delle etichette mentali, delle parole che servono da etichetta. Which occupy the intellect. Queste parole servono a tenere occupato l'intelletto. And stop it from wandering away on dreams and fantasies. E gli impediscono di scappare in fantasie o immaginazioni. So lifting, pushing, moving, pulling. Quindi le etichette possono essere sollevare, spingere, muovere. Very simple. Quindi delle parole molto semplici. Intending to sit. Intenzione di sedersi.